amare, dormito, sì. Prova. Mica mi senti? Luca! Attenzione, Bacchisio! Attenzione, Gian Maria! Affamore! Ma cosa c'è? Ehi, fino in bocca c'è Baraura, va? Ore! Cattaello! Ore! Andermo bene, andermo! Oi! Attenzione Gian Maria! Graziano! Hola! E Lu! Luca! Piattore, vi abbetto! Sì! Oh Giulia! Cosa ne venne? Ma niente! No! Qua ha giocato, dottor! Abbiamo chiamato prima, non c'era nessuno! Ti ha chiamato anche Luca! Io mi sono allontanato! E non ho potuto rispondere! Andave, ma tu solo sì. Dovrebbe essere anche Luca. Lu, ci sei. E Lu. Te e Lu. E beh, risolto il computer, to. Eia, l'ho disinstallato qualcosa, era quello lì che mi dava conflitto. Il computer già funziona bene, era quello lì, era. Ha detto che non vivo sta in Kiwi. Allora l'ho provato sul portatile e coso, già è così. Già andava e funzionava nel portatile solo. Meglio così, dai. L'interessante è risolvere le cose. Eia. È più di muro, mamma mia. Boh, rimane in stanza di aveva oggi della pioggia, boh. Devo chiudere, e poi uno si ammara. Vabbè, che sta cavando che sono freddo, che vera, mi. Ah, si sente più bene. Ah, si sta meglio, dici. Ero giurenni stasera, ma te l'ho passeggiata con Lugani e ho cominciato a sudare. Ma è stato rinfresco, la mattina c'è freddo, capito? Oh, yeah. Lu! Non ne vuole venire di caldo, no? Con calma, lascia fare un po' di pioggia, che sennò di stio, sai come ti stai? Ma to, cata che il stio dura sempre di manco, boh! Ah, piano piano già si comincia, vedrai. Tra poco te ne vado a fare Ferragosto, sanno più come sono le stagioni, no? Aspetta, se no abbassa il riscaldamento, Iuia. Ma Grubeltro? Bello, ma c'è già Graziano, lui, devi entrare su WhatsApp. Poi mi hanno dato 1-8 di computer da aggiustare. Ho fatto delle prove, ma niente. Accende, ma la schermata nera. Io sto pensando che sia la scheda video. Si è partita la scheda video, ma cos'è un portatile? Eia. Si è partita la scheda video, anche lui è partito duduttu. No, accende, capito. E lì come fai a cambiarla? Ah, vabbè, lì fai... Molte volte lo è che si brucia proprio, ma... Siccome mi ha detto che stava funzionando e poi è sparito così di colpo, fai una bella riscaldata d'aria calda a 250 gradi, 280 gradi da lontano però, Aspetta un attimo Luca, e Lu, provaci pure con l'aria calda, se riprenda però, le mie barie che hanno, si brucia la scheda video, bisogna chiamare tutta la scheda in Kiwi. No, magari c'ha, sai che la scheda c'ha tante saldature, no? Micro saldature piccolissime. Qua ce n'è qualcuno a freddo. E può darsi pure che magari dando una bella pasta di aria calda si rifredda. Ci voglio provare domani. Domani lavoro. Giovedì. Va bene, aspetta un attimino, Luca. Sì, fai con calma. Luca, vada a mangiare Graziano. Vieni dentro. Ehi, atto, mi hai chiamato. Sì, ci sono rientrato. Intesa, come ti puoi... E come vuoi comprarci uno nuovo? Vabbè, fa 50 euro, come vuoi riparare su? E quanto li dura? Lo so. Dalla andare a Santo Stefano. Io lo prendo, lo do a mia figlia e me lo vendi in Inghilterra. Infatti, qui è stato un buon bacca, tanto non li comprendi nulla, ma i roghi non ce la faccio di scatole. È solo che da, che sono mio, vari 70-80 euro. Un HP Pavilion, sì. Pavilion DVC. DVC. Vabbè, dai, già da me. Ma ecco! Cos'è che ecco qua? Buonasera circolari! Ciao Torre! Ciao Luca e chi c'è nella ruota? Avanti Luca! Davvero! Ciao grazie, buonasera anche a te! Avanti Torre! Torre! Milumi! Milumi Lumi! Senti mi! Stasera ce n'è pigiato gribbe di ammoglio! Gribbe di infusi! No, sono rientrato dal diabetologo, me lo me, al Palazzo Rosa, dove devi andare tu? Sì, a me, anche a dicembre. Pensa un po' che anche andrò 12 di dicembre andai io. No, io adesso devo ritornare a luglio con la visita del cardiologo, devo fare l'ecodoppo alle gambe, di nuovo, e... le analisi, visita oculistica no, perché l'ho fatta a gennaio. Quelle analisi e quelle due visite devo fare. Domani me le prenoto, telefono. E tutto ok. No, io c'ho... quella del cardiologo ce l'ho il 23 ottobre. Poi tutto il resto ce l'ho 10 giorni prima delle andare da diabetologo. Ce l'ho... 10 giorni prima devo fare gli esami e poi devo arrivare tutta la documentazione e poi da anch'io piano piano vengo gli agimici. E anche io 10 giorni prima le analisi, le visite, però le devi prenotare adesso perché quelli hanno tempi più lunghi, capito? Dunque da qui a luglio penso che già me la diano, quella del cardiologo e quella di fare l'ecodoppo. No, io ce l'ho già prenotata, grazie. Ce l'ho il 23 ottobre, ce l'ho, alle 10:30. Ma io le telefono domani, stasera hai chiuso, per prenotarmele quelle due, cardiologo e endodoppo, capito? E dunque domani ci telefono, mi prendo gli appuntamenti, me lo scrivo, quando me li danno e vado. Me li faccio lì via Zanfarino, già li fanno anche via Zanfarino. E lì devo andare io. Lì devo andare infatti. Alle 10:30 devo essere lì. Sì, perché l'ecodoppo su al Contini, l'ultima volta che l'ho fatto, pari a un pastore, dice, una via una gana di visitate, me l'ha fatta a Trullallà, me l'ha fatta. Dunque me le faccio lì. E in via Zanfarino tutti e due, me li prendo lì gli appuntamenti. Boh, non mi piace proprio nulla, dice me l'ha fatta e gli vi sopra Lugontini l'ultima volta, le codopole al collo e le codopole alle gambe. Era pure impressa Nadi. No, io l'ho fatta al coso, al collo l'avevo fatta l'anno scorso, a ottobre, a San Camillo. Questa ragazza qua, ti dico che era un bel brava. Adesso vedo, anche a San Camillo già è veloce lo stesso. Una volta l'ho fatto a San Camillo il cardiologo, però no, dal cardiologo non era secondo, chi pulisce era imprezzato. No, io quando sono andato l'ultima volta dal cardiologo, la dottoressa su Alconti, due volte la giù fatta anch'io e tutte e due volte mi ha sentito chissà. Quest'anno invece non da va, non ve lungo in Chivi. Perché ce ne sono un bel di visite e di prenotazioni, capito? Già lo so, però lì via Zanfarino me la faccio. No, del cardiologo l'ultima volta l'ho fatta via Zanfarino e già me l'ha fatta, insomma, abbastanza bene. Però l'ecodoppo al Contini, chi su, e l'ha presa la lì, pari a pastorazzo. E mi l'ha fatta la Trullallà, compreso. Ma veloce, veloce, ma con 3 minuti va pure. Sì, grazie. Così sono tutto in presa, so. Quando baghi invece di avvagliare come ti si devi, hai compreso? Quando baghi di buoni, di burro, di solo, burigina, brandina, Si tratta di un gentile e bellucco, sborso 100 euro. Capito, Luca? Sì, ho capito. Dalle due trappole, vai a pagamento, ti trattano su un piatto d'argento. Lo so, macchino. Eh beh, è normale, no, cazzo. Maledizione, maledizione. Io ho lavorato anche un pinguino. Eia, ho lavorato. Ah, non hai fatto un video. Ma ti va a fare un video, tutto miuva. Anza, lo riprendevi il marocchino lì. Boh, a che punto siete arrivati che non ci sono potuto passare io a controllare? Dimmelo, dimmelo. Vabbè, grazie. No, siamo tre mani sporche, capito? A toccare il telefono lo faceva beffa. Eia, ma mi ha chinato là almeno, e in quel muro non ce ne vanno interruttori di luce, qualche presa. Cos'è quello, un soggiornino? La camera da letto non ce ne va, ci sono già i punti luce lì. Ah, quella è la camera da letto, e dove c'è la porta a finestra, quella sta abbandonata accanto. E vicino alla gianna d'ingresso, a parte c'è il muro, vabbè, lì è la camera da letto. Vabbè, c'è il muro lì, capito? E dietro c'è il corridoio con la porta d'ingresso, già l'ho visto. Però la camera da letto vicina alla gianna d'ingresso così è troppo l'occhio. Beh, dottore, puoi tragga anche tu con un macete e ti dimostra subito un capo. Dottore, cosa le pensi di dire? Dottore! Milu! Cosa c'hai, grazie? Cosa c'hai da zicchirià? Mica ti intendo, mi roba vedendo io come moglieri. Te la si può fare nulla con chiuso. Già lo sai che mi fai spaventare se non rispondi subito. Se ti mangi anche sul cagnolino. E vai, che drummido, da stare sa che drummido. Aspetta, non rispondi io ci vado. Inteso è Luca. E chi? Il cagnolino Vittore. Beh, anche lui non drombi, stiamo con drombi la via. Ma dimmi una cosa, ma Rudoio a Trudienza, anche lui gatti dice mi è morto, cioè mi è morto, l'ho fatto sopprimere perché era questo mare, poverino, stava soffrendo, già non se ne è avvisato, è passato dal sonno all'aldilà. Questo lì, lo sai che scorreggiava, poi si fermava, si girava la testa e mi guardava. Ma ammazzava Rubianco! No, la mia russa fa. La mia russa un bel. Pure la mia russa fa un bel. Pare a un cristiano, pare a un azzurrago. Però scorreggiava anche, e poi si fermava, si girava e abbagliava la faccia. Pularecci, garate e luci, in gloria. La mia scorreggia non l'ho mai sentita. La mia zia tanti voti, no che in cucina, magari bussati no che è da cucciata il vino tra di là in terra. E l'intendia prrrr, ma bendava con luci sopra, anche io me la bendava, mi dice che cazzo sei venuto, ma troviamo ti vuoi andare pure. Pure loro hanno il diritto. Pare a un cristiano il suo cane che va via io. Poverina, ma era messa troppo male. Lo camminava più, era di 20 anni giga. E poi non aveva più gente, non aveva due incrosi. Quando mangiava ne parava tutto, era sempre all'ingappura, a benzurone, anche la senza dente, non riusciva a tenerla dentro. Era messa male, e non solo, anzi l'ha tirato un po' cadarazzi perché gli davo la pastiglia di cortisone, capito? E poco impediva, rimaneva, cioè con le zampe di lati, si darete erano in terra, le strisciavano. Vabbè, buona vita. Adesso se ne è andata all'altro mondo. L'ho sotterrata in campagna, dopo ho sotterrato gli altri cani che mi sono morti. E mi è venuto a pigliare pure un mazzolo di fiori, 10 fiori rotondi, bianchi, bocce di fiori, Mariana, ma grandi. che mi ha portato la tumba, poverina. E ha fatto qua? Che ogni tanto già li rimette più. Mi l'altro giorno sto scendendo in campagna, non mi sono andato a mezza. Però sopra gli ha messo una pedana, ossia che andava qualche altro cane a scappare. Ma non penso, perché gli altri due cani che c'erano in campagna erano lontani, bussati, a baitelli. Se l'hanno immaginata. Quando ha finito tutto sono andato a piangare, se l'hanno immaginata. Che meraviglia, a chi già la conosceva lì. Vabbè. Oia. Oh, lui. Ah, me li due saluti me li ho fatto, era una. E non si è sentito Luca Flippero? E qua è. Cosa stai facendo Flippero? Spezia, rigigione e fendi. E fresco gittenni da che cosa sarà? Cubicchini, chissà cosa è fendi. Stavo guardando, siccome sul volantino appunto dell'idolo avevo visto questi prodotti e ho chiamato. E mi ha detto, però la signorina mi ha detto che bisogna per forza andare nel negozio per vedere se ci sono ancora, capito? Perché loro non possono saperlo. Ah, e cosa c'è nel volantino? A me ha già bellato il buco oggi quando sono rientrato. Non mi bastano i nocchi che si rimbambiti. Boh, e a me la gatta in carriera gittata, a me si può essere di lampada invece buoni lì. Il buscare, il buco, boh, e cosa c'era? Volevo sapere se c'era ancora quella moletta 1200 watt a 24,99 euro, quella moletta lì, e poi c'è una pistola a spruzzo che mi interessava lo stesso, però capito, la signorina non me lo sa dire, ma deve per forza andare nel negozio e vedere se lo trovo ancora. E ma dove? Quello sulla strada di Alghero che c'è lì a Predanieda, oppure quello di sopra? Ah. E ti dicono che devi andare nei negozi per vedere se ne hanno ancora, che loro non lo sanno. Ah, allora bisogna fare un giro a vedere se ce n'è rimasto. Ehi, a me mi ha cominciato a fare un casino. Ci potevo passare quando sono... Stavo rientrando dalla visita. E vabbè, no. Se esce domani mi posso un giro domani a finire. No, perché quella me la voglio comprare. A parte che quella che mi si è fermata non l'ho neanche guardata. Già funziona la Roma a te. Si sarà lasciata la spazzola, boh. O gliele devo sostituire. Però a parte quello... Non mi piace l'interruttore, me lo voglio bigliare di chi tiki tac, con frigge, quello che c'è in questa maletta che c'ho, lo devi tenere premuto tu col dito, come lo voglio si ferma. E ti cancare già lo dito a fuori ai mantillo, spinto, capi? Perché è anche un po' duro. Ho capito quale modello è. Comprendo. Perché hai capito, questi negozi non hanno un numero di telefono, qualsiasi ti risponde sempre il call center e ti dici che ti devi avere, uno ci deve dire a tutti i negozi, magari non veranno più questo articolo, capito? Quella è la rottura di scatole, invece se avessero un numero, uno chiama, non ce l'hanno, ok, ciao. Niente di strano che ce l'abbiano. Comunque io ho trovato un sito che ce l'ho qua nel telefono, è gialla e il prezzo è lo stesso, mi sa, il prezzo di quella, mi adesso guarda e te lo dico se ce l'ho, il prezzo è la stessa di quella, 24 euro mi pare, la detta che abbaglio, ne prendi lui. Aspetta, io metto l'auricolare, aspetta. Eia, ora ci sei. Io che ci sono. E riprendi tu con Luca che sto guardando se c'è ancora questa moletta qua. Ehi, anche la moletta adesivi. Me la devo comprare perché quella là anche se funziona, funzionerà, mi se ferma la fai. Però non mi piace l'interruttore. E di quella molletta devi salvi con un dito innanzi e tenerlo spinto in avanti. Ci guardi tutto. A mantenirlo, mi dà il fastidio e voglio comprare quella che fa tic e tac, chi c'ha da là se funziona, poi andrà a bere prima, torna a chi c'era, chi c'è invece devi fare qua sta in mano, travagliere, dagliere, però devi tenere spinto l'interruttore che è a molletta, se alletti poco poco il dito si rallenta, si rumulli, si chiusa, si blocca. Ma come io ci faccio guidare? Interruttore, quando io ci rimane fermo. Oh, questa è tutta particolare, vi aggiuda Monopolo, vi aggiù 30 anni e funziona benissimo, non ho fatto la furia con quello. Però prima mi la si abbacchito, cioè non ci facciamo caso, adesso che qualche volta così la dopo già ci faccio caso, anche quando mi ho fatto il braccaggio nel salone, in camera da letto, nell'inglese. Mi date fastidio a mantenere il prezzato con un dito, con un friso. Cioè mi vengono i grampi. No, io manco mare, e se c'è un interruttore rimane il fermo. Ma cavaniere si deve entrare appena appena rodito e sollevare. E tirare indietro. E si asciuda. No, questa che c'ho io no. Vabbè, però va, mi ha rotto la scappa. Mi pare che viraggio roba di 40 anni, viraggio. E l'avevo presa da cosa? È del 5, l'avevo presa. E io ce l'ho un sacco di anni lo stesso quello, già ne ho fatto la V. C'era anche più grande, mi della taglia, nuova, quella lì. Però il più adoperavo la moletta, era più maneggevole, mi, lavorando. Li ho presi quando stavo facendo i lavori sia a casa qua che da casa di mia madre, e altri lavori avevo fatto, e io l'ho trattata da ombre di voci. Eia, riprendi Luca. E Luca ne una, ma guarda che la Luca funziona bene, una bombetta. Questa volta venne di da coso alla Lido le molette c'erano buone, di quelle a batteria. Di quelle, ho capito, mi ci ha messo un buone. Io oggi mi faccio un drabbano a coso, ed è un bel buono. Con la batteria alla fine è un casino, c'è anche Luca, l'ha portata in cantiere, ma no, non mi dice niente. Ma io pensavo, faccio che d'altro drabbano a batteria, è pure un bel buono. Sì, vabbè, ma la durata alla fine non è molto, capito? È meglio sempre elettrico. Quella batteria la puoi usare per fare cazzatine. Sì, non è così, no. Ho visto un trabbano professionale a batteria, chiata. 800 euro. Lo so, però alla fine la batteria non è che duri molto. Chi sei professionale, venna due batterie. La batteria del Riccardo, quando si carica già una vai l'altro, quando si carica già l'altra avrai due raccarica. Ah vabbè, se è quella di Riccardo realmente carica l'altra, allora sì. Quindi, però sono 800 euro, è di quelli professionali, va tutto in un pari. Lo so, però dico, se c'è la batteria di ricambio tanto quanto, ma alla fine la batteria, la molta batteria, a fare della vaglivalli, la sappigli. Sì, vabbè, una moletta è una moletta, una mola è una mola. No, dico la moletta, piccolina sempre, quelle a batteria, ma quelle a corrente, quelle già vanno bene. Io ve la giù 40 anni, l'avevo comprato il 5, mi ha pagato 100.000 lire, l'avevo pagata. Vedi, 40 anni, funziona sempre bene, non ti ha mai dato problemi? Mai problemi mi ha dato, sempre funzionando, e non se ne acciappano più di chi. I carbuccini mai cambiati gli hai? Mai ho cambiato nulla, mai, è sempre buona, sempre buona, funziona che una mori. Ho capito, meglio usci, meglio. Cioè la cosa è meglio che duri, no? Allora, 40 anni fa cusciavami. Luca! No, a Luca Flippe, mi già ce l'ho quella moletta, smerigliatrice Frecchi, angolare Valex, Ixi, sta 51 disco, consegna gratuita 22,97. Poi ce n'è un'altra, migliori vendite, si chiama Trotec sverigliatrice angolare Paggi a San Napoli, migliore vendita, quella però costa 35 euro, consegna gratuita. Protect merigliatrice angolare PEGA 10125, referenze, vedere la descrizione completa, adesso riprendo. C'ha 5 stelle, c'ha, testato da 37 clienti, 5 stelle. Sembra buona. E beh, 5 stelle è buona, viene di tutti i brigi, per dire, c'è la Bosch costa 99, poi c'è anche la catena che puoi attaccare alla moletta e la puoi adoperare tipo motosega, costa 13,86 euro, l'attacchi alla moletta, la lama con la catena, c'è un coso davanti che si attacca tipo la motosega. Kit adattatore smerigliatrice 3 Kit Felix angolare lì e la puoi usare a motosega. E già va bene, allora, voglia. Sì, puoi adoperare la moletta tipo motosega, qua si è attaccato la lama, c'è quel braccio come la motosega col paramano. Beh, pure una pulita di luzzo per la catena collegata al fianco, una bella cosa, e costa pure una stronzata. 13,86 euro, hai capito? 3 stelle c'ha, testato dai clienti, spese di spedizione 6,50 euro. Una cazzata e puoi usare la moletta motosega, hai capito? Beh, certo. Comunque a me quella batteria, sì, proprio cazzatini, io sto per tagliare una cosina, ma a meno che è la batteria di ricambio, ma costa più la batteria che la moletta. Mi si chiama Kitty adattatore smerigliatrice Flex angolare elettrosega motosega barra 11.5. Caspita, mica hanno la sabbia, gira bibi di uno e l'altro. Così che ti voglio la motosega, la attacchi io e vado pure la motosega. Hai capito? Sembra la motosega, solo che l'impugnatura è la moletta, però già c'ha la maneccia, tipo come la motosega, capito? Bella, bella. Già va bene, dai, molto costa. No, l'adattatore costa 13,86 euro e la motosega, quanto ti ho detto, 39, allora aspetta, spesso ho comprato insieme, mia va te lo dico, spesso ho comprato insieme, vediamo, allora, prezzo totale, il disco, il disco e la smerigliatrice barra 13, il disco, c'è anche il disco per la smerigliatrice insieme comprati, 13 euro, 15 euro, allora vediamo qua, 13,86 euro e gli saranno tutti a San Napoli. Allora la motosega costa 22,93 euro, c'è quella o se non c'è questa 34,95 35, però la motosega c'è staccata la moletta da 23 euro, là. Insomma 23 euro più 14 euro sono 20, 30, 35, 36 euro, spedizione gratuita, consegna gratuita. E insomma 22, 25, 26, 27 euro ti viene, moletta e con il kit del kit adattatore smerigliatrice flex della motosega. Già va bene, dai, buon prezzo, dottore. Cos'è Luca? Ti chiamo buon prezzo. Sì, a voglia. E oggi ho finito di comprarne dei cose, non mi interessano più. E poi ce ne sono dei vari prezzi, mica la puoi separata a te, ce n'è una da 27,50, chissà, vabbè, boccio, 99 euro, poi c'è metà bocca, 99, 100 euro, boccio 64 euro, dei vari prezzi, ce ne sono tutte molette qua, qua, 30 euro, c'è la pistola a spruzzo, si compra bene da qua, là. 100 euro, 200 euro, io come c'ha, cosa me ne incasso? Sono 45 anni, 4 anni, 5 anni, nuovo, cioè nuovo, è usato, però tenuto bene, ed è un bonbon. Mi adesso l'ho mandata a Luca, te lo mando e te lo guardi. Luca! A Luca ga! L'ho mandata a Luca Flipper e tu lo vuoi vedere e te lo mando. E manda, manda. Aspetta. Aspetta che te lo rimando. E la ho preso il video, magari se mandate. Arrivare mai detto lo mattesse, perché ti ho mandato il video di chi tu di Tore. Ma a me non mi è mai arrivato nulla. Sei arrivato ti. E beh, non sentito hai adesso. Cosa? Sentito hai adesso. Che cosa? A pigliarla. Certo, ma hai detto che... Ma appunto, se non è buono che fa cosa? Ma ho buon culo a basta, ho buon culo all'altra. Tu ne hai due. Che pita non riesci a cattarti, Luca? Boh, esci a vedere. Agata, stupiscila! Ah, mamma! Tesi, non tagate. Sei parito, sì, ne sei andato. Ma rimani, ma ci ha mandato un video a tutto, ma che è un video? L'ho mandato Gianluca a Cubicatura e all'altro. Ehi, già ci ti su lui. Vabbè, pompo. Vabbè, buonasera a tutti. Ciao, porco. Luca, arrivato ti. Luca, è parito, sì. Aspetta un attimo, controllo, grazie. Ehi, è beato lei. E allora, questo sposalizio? Appena finisco il corso, stamattina ho fatto del tuo cittadinanza per mio fratello. Adesso devo fare un'altra cosa, domani all'avvocato e poi vado e mi informo, capito? Mi informo in pratica. A vedere cosa ci vuole, che documenti vuole. E poi faccio il passo più lungo della gabba. Riprendi, Tore! Mi siete su terreni a Luca, mi siete su terreni. Luca! Illu! Da tutto ho scicciato da. A me mi è arrivato un nudo, amico, grazie. Chissà che a lei mandendo che si cose. Secondo me sei confondente un po'. È bella questa mola, però bisogna vedere se c'è ancora, oh Luca! Grazie, bisogna andarci perché al telefono ti dicono che bisogna andarci a vedere. Purtroppo loro non si possono dire se c'è o non c'è ancora. Ebbene, Cubicatura. Anche i carboncini di ricambio ci sono inclusi, gli avvisi vicino alla chiave. E bisogna vedere se vedi ancora. Sono prodotti buoni, Io ho della roba, ti ho detto, Parkside, sono veramente degli ultimi prodotti. Lo so, questa marca qui è buona, già lo so già. Io quella che ho, la moletta, è di marca, mi pare che era Valex, mi pare. E l'avevo pagata una cazzata, ma c'era un sacco di anni, e l'ha rubato i travagli. Ebbene, Fiple. Ma dia il tuo negozio? No, quello che ho mandato a Luca su... Lo sto guardando su internet. E c'ha prezzi buoni anche quello. E però c'è anche la spedizione gratuita, Luca. Non c'è né spedizione, non li paghi, paghi solo l'articolo. A me non mi hai mandato nulla. Come non ti ho mandato? L'ho mandato anche a Luca, manicomio. Te l'ho mandato dove c'è scritto Luca Flipper Cubicatura e poi l'altro Luca Marianini. Cosa non riprovo a mandare? Manda su WhatsApp, non su Messenger, o dove lo stai mandando, su WhatsApp mandami. E su WhatsApp non ce l'ho quello, ce l'ho su Messenger. Come adesso, guardo se ce l'ho, nella... dove ci sono tutte le fotografie, te la mando da lì su WhatsApp. Adesso guardo, riprendete. Luca, aspetta, Luca, a me stai chiamando, dottor. No, stavo dicendo a Graziano, vedete, c'è un negozio in DE, mi dici internet cosa era? Beh? Luca! Chi è? Mi riprende a sussare, credeva che non riuscendo. Scende. E beh, come cattivo. Ciao Fra, ben sentito un po' tanto, buonasera. No, siccome quando chiamano Luca solo, non sappiamo a chi stanno chiamando. E perché? Solo tu ci sei, Luca. Io sento solo a te, solo che c'è Graziano che va all'udito che pare coso, come si chiama? Billy Kid. Ah, non lo sente l'altro Luca? Vabbè, lui magari perché è più in basso. Ah, chi è? Luca del Monte? Ciao Franco. È negativo, non lo sento. Salutamelo. Ciao Franco, mi senti? Comunque ciao Toro, ciao anche a Graziano, alla ditta veloce. Allora Tittore. Sì, ok, ciao Fra. Luca, vuol dire che non ti sente? Vabbè, non posso far nulla. Ma sì, tu devi buoni i piedi, ti devi buoni. No, ma sono orizzontale. No, dobbiamo preparare che cosa? Stanno andando a pudiche. E lui? Che ti pudiche di bisiglia? Luca, ma non si fate così però, Cosa? Ho detto a Luca Flippe che non si fate così. L'ho fatto. Me lo tratti, catta, a me mi ha detto di dire che sono in orizzontale. Catta, ti pare a te una cosa da dire. Luca si sta allenando, capito, perché fra poco ha dei parenti che gli fanno gli sconti. E andiamo dove andiamo? Non sapevi che era la cugina quella lì? Poco ti si maglia. Luca, ma pure tu, vedi ciò che ero in orizzontale, catta, poi niente in verticale, già lo sai che è sempre verticale la cosa che si batte. E allora, tu, paccarizzaga. Luca, mi è arrivato te a te. A me non mi è arrivato niente, grazie a niente, solo i messaggi di Luca mi sono arrivati, tu niente, no, mi sono arrivati. E come mai? Grazie. Li devi mandare direttamente come ti sta dicendo Luca, sennò non arrivi in onda. Sto guardando se fa affare, non è in galleria di quel cavolo di foto. Devi fare, condividi link, capito? Lo mandi su WhatsApp a me, a Luca. Adesso provo. Luca, aspetta che c'ho la pistola, devo provare, però non so se è carica. Te la posso provare addosso a te? Perché no? Allora domani la porta, provo, vediamo un po'. C'è scritto salva su Facebook, copia, apri link. Apro link. No, devi fare condividi link. E non c'è scritto condividi qua. Ne è apparso smerigliatrice, ma è scritto apri link, salva su Facebook o copia. Però condividi non c'è. Allora fai copia e poi vai su WhatsApp e fai incolla. E dove è scritto incolla? Ma ti arriva o dai già via? Punto, dove è scritto incolla? Aveva scritto chat, è stato chiamato, dove c'è scritto? Luca, mandali qualche cosa a due, ma così l'apri. Fai copia, poi vai su WhatsApp, dove scrivi il messaggio, tieni col dito e ti appare incolla. Apparsa, adesso lo ritocco. Hai copiato, adesso su WhatsApp, dove metti per scrivere, col dito tieni premuto e ti appare la scritta incolla. È uscita la scritta incolla, va! Perché ho collato lui? Grazie, mi meraviglio di te, uno che chatta, va, si tira, molla, cascata e non riesce a fare su. Perché ce l'ho da Valdone e ce l'ho da molto questo, non lo so, capito. Esci, incolla, avanza, vado lo dice, ecco, incollato, avanti romando, eh? Falli ci raggolla pure innanto. Poi i battori. Va, domani che andando ad attaccarlo. Luca non si attacca più un mattone. Non è arrivato, grazie. Adesso l'ho mandato anche a Luca, guardatelo. Mano a mano punto it è questo, sì. Adesso me lo guardo. Prova. A Luca, guarda se è arrivato. Aspetta che controllo. Ehi, ma anche da coso, grazie da Bricco, mi bisogna le molette a 13 euro, capito? Ma io stavo guardando quel modello della Lidl, Parkside, che sono ottime lo stesso. Ehi, ma in quel sito che ti ho mandato adesso, guarda, ce n'è una marea di molette di tutti i prezzi. E c'è anche la moletta che poi c'è l'adattatore, la puoi adoperare anche a motosega. E costa una stronzata. Questo è un sito che va bene a Luca, cosa? Non è mandare a me, mano a mano. Ciao Franco, se mi colpi, ben sentito dopo tanto. Ehi Franco, intanto siamo presi con te. Ma se mi sente, mi lo fa, se ha detto che entro sempre io, non ha detto così. Franco, mi colpi. Attento Franco di Sorso. Vedi la moletta a batteria che c'è, io della Henkel l'ho pagato 80 euro questa batteria ed è... io mi trovo bene, certo se la devi usare tutto il giorno non è che ti dura, però abbiamo tagliato il marmo, abbiamo tagliato il ferro e giustamente da quello devi puni a caricare, perché nonostante la batteria è da 20 watt, però quando sforzi tagliando è normale che la batteria consuma. Comunque si può comprare anche lì da, perché la spedizione è gratuita. E beh, tutti caduti siete, Antonello non ci sei. Già ci sono, sono qui. E cosa sei venuto di vento? Nulla sto facendo a questo momento. Non ho giocato niente, non ho giocato a fare nulla. Attore! Dimmi! Cazzo, ti sei guiato, non ha detto, facciamo una rostita, cane morto! Ancora non lo sono, cazzo, devo fare la documentazione! Sto facendo altre documentazioni di prima, mi interessa quello adesso! Poi faccio l'altra, non ti preoccupare! Tranquillo, io ti invito! Non ti sei sposato ancora? No, cazzo, sto facendo documenti, ma... Non è che faccio tutto in 5 minuti, ce l'ho a fare i documenti per mio fratello, ce l'ho a fare i documenti per mia nipote, poi eccetera eccetera. Hai capito? Sono pieno di... tutti i giorni da un ufficio all'altro per fare le cose. Poi adesso, se mi va bene, ci vado dopo domani, ma devo andare a Gianosa in comune. Chiedere l'appuntamento e poi sapere quando è che già lo sai, le pubblicazioni non è che te le danno subito, ci passerà un mese, cosa ne so? Boh, non lo so. Allora ho letto male io su Facebook quello che hai pubblicato tu, che da sposati o non sposati non era cambiato niente. Allora ho letto male. Ho letto 25 anni, adesso basta, adesso mi sposo, ho letto basta, tutto lì. Non le balle piene di stare così. Tanto quando in pratica se cioè, ti sposi o non ti sposi, se ti vuoi mollare ti muori il primo mese o il primo anno. Siccome ci sono 25 anni, basta, avanzalo. Ah beh sì. Quanto ce ne sono che si sposano, cioè fidanzati 2-3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, un anno, cazzo. A un certo punto poi vanno, si sposano, dopo 6 mesi si cazzo divorziano. Ma che cazzo si è fatto a fare uno? Prima si convive, capito, un bel po' di tempo, in modo da conoscersi bene, sia di carattere sia di soldi. Una volta che ti sei conosciuto bene, allora capito, sei tranquillo. Inoltre, cioè, da fidanzati non sei mai carattere di uno. Quindi, poi cosa ne sai? Magari quello conosce qualche amico nuovo, cazzo, che tu non conosci, e si è sposato con lui, è contento, cazzo. Invece io mi sono tranquillo, 25 anni sempre la stessa. Sei fidanzato 25 anni perché? Adesso aspetto solo la pensione, se me la danno, a 65 anni la, come si dice, la pensione sociale e poi mi faccio la vecchiaia se, se è duro. Se non è duro devo abbigliare il culo, non si sa mai. Ah, Antone. Dimmi. Perché 25 anni sei fidanzato? E allora, secondo te quanto sono fidanzato? 25 anni tondi tondi sono. Capita. Tu vedi qualcuno che a 25 anni ci riesce a rimanere con la fidanzata? Io penso di nomi. C'è tanta gente ce n'è che... quello l'ho mollato, capito? A quell'altro l'ho mollato, quanto l'ho conosciuto così? Che fidanzati per dire 4, 5 mesi, 6 mesi, cose del genere, beh, insomma, il tuo fidanzato, il mio fidanzato, c'è una dica non ve la giù più. Il fidanzamento è importante, ma poi nonostante sono, molti sono sposati 10 anni, 15 anni, 20 anni non c'entra niente, se si mollano sono per altri motivi, così che molti fanno più anni di fidanzamento che anni di matrimonio, come ben vedi non c'entra niente quello. Ma quando una volta che ti fidanzi che sono fai 25 anni di matrimonio, questa è la cosa, per dire, figlio di Silvio Berlusconi, quanti figli si ha fatto? Eppure quella non l'ha sposata, hai capito, a quella lì. Non è così macono figlio di Berlusconi, evidentemente c'ha un bel giro di donne anche lui come padre. Perché a quest'ora me l'avrei sposata e tutto si getto fanno, invece no. Sono passati tanti tanti anni, hanno avuto mi sembra due o tre figli, eppure ancora sono a sposarsi. Se si sposano guai, rimangono, se ne vanno tutti con loro, rimangono con tutti contenti. Quello faceva il bunga bunga, è più basso che lo buco buco. Antone! Sì. Perché la Toffanini, Silvia, che ci conosciamo, no? Mi chiama tutti i giorni, sta decidendo, capito, no? Perché non è facile la scelta, deve decidere tra me e lui. E ti piacerebbe. Chi se vuole dire la compagnia nuda tu no, c'ha i soldi già, però tanto cazzo è un cane molto peggio del padre, cazzo. Però c'è proprio di carattere lì, il figlio di Berlusconi, proprio stronzo, perché da quando c'è lui nella cordata non è come prima, no, che il padre ci lasciava per dire tutte quelle ragazze belle che c'erano. Se non, c'è, se non c'è un po' di ascolto, non produci soldi, sei fuori, hai capito? Fuori immediatamente. Anche a me non mi ha mai tanto ispirato. Oh, non è che lo vedi spesso in televisione, comunque, come il padre. A lui non lo vedi quasi mai in televisione. Però boh, no, non mi ispira tanto come persona. Boh. Secondo me è l'onfio più del padre. Lui, capito, sa per i fatti suoi, secondo me. L'onfio quanto il padre, non ti preoccupare. Già allora che il padre non ci sarà più, ci sarà un bel affalatore in quella famiglia, te lo dico io. Con tutto, ne vedremo delle belle, magari che risulterà che lui avrà avuto altri 3-4 figli da qualcun altro, eccetera, eccetera. Come faceva il padre? Io erano pochi che si sono armati queste persone lì, visto la Maradona, ogni tanto ne sbucca uno. Soldi, un bene hanno, molti, molti, mi sembra sia al terzo o al quarto, boh, per lo scorso. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Anche prima, mezz'ora fa, Silvio mi ha chiamato lamentandosi, io consigli gliene posso dare, ma fino a un certo punto. L'unica cosa che poteva fare Berlusconi, dato che se parla, dice cazzate. Se avrebbe voluto avere fatto come l'imprenditore, come si deve, voglio aprire un'azienda in Sardegna e assumere 500-600 persone, per dire. Invece se ne sbatte le balle, capito? A lui interessa il nord, cosa gli la fotti a Eto? Se avesse voluto, dice cosa gli altri, lui è peggio, grazie. Non fatto che comprare villette per fare i festeggiamenti, capito? Poi fare arrivare a Putin, scortato che sembra con i sommergibili, con le navi, cazzo, e lui va su macco, me, cazzo. Beh, tutti morti siete! Luca Malicomio! E lui! Che cosa stai facendo? Sì. E oggi cosa hai pranzato di buono? Cosa da bussi? Focaccina! Il panino! Faccina! Ah, io mi arrivavo la bastacciuccia! E allora, con la fettina di cavallandondolo, 2-3 fumati, tutto bello organizzato per il pranzetto. E già va bene così, dai. Ah, io quando lavoravo in cantiere lì a Chiesi, portavo il pigiattino. Io sempre me l'ho portato il picciattino, però mi arrivavo primo, secondo, frutta, è un bel mosca che berruzza con la borsa a frigo in estate, con due ghiaccioli dentro, chiedita, e mangiavo poi di scorta, ma non sicuro si buoniva sempre un panino, qualche catturetta di Simmental. In più no, o se magari veniva più fame. Ah, mi portavo gli occhi di patate così buoni, poi mi portavo la bomboletta, ma li scaldavo anche. Ehi, ce l'avevo anche io, il fornellino, secondo davvero che non c'era nulla per riscaldare. Ce l'avevo sempre appresso in macchina, era vizio, quando mi si via lo pigliavo e cagliano anche un primo. E gli ero grigio, infatti un bel tutti mi invidiavano, che ha sempre fatto l'umacco vale. E dovevi mangiare il panino e mortadella, pure il panino e mortadella, gli altri si fanno vento che ci ubicano. E mi mangio, non mangia chi doveva mangiare in casa, me la giugno la sera prima, lo preparavo la sera prima, poi lo mangiano, l'imburicavo, no? E me lo riscaldavo. O se no certe volte me ne alzavo prima e me la preparavo la mattina presto. Io la mattina presto me alzavo, usavo a cucinare gli occhi di patate, un attimo mi muovi. Tipo mi alzavo verso le 5:30, sembra un quarto, poi passavano alle 7 a prendersi. E poi c'aveva anche il termos, quelli grandi, Barumagna. Palagarri, grande, l'avevo preso da Conforama, infatti quello l'avevo regalato a un ragazzo che faceva il manovale, tanto non mi si via più. Beh, domani mi cadia un piatto e più di primo, poi c'era un altro contenitore sopra che ci stava benissimo, tranquillo, tranquillo, pure la bistecca dentro, con l'insalata. Ci stava primo e secondo, e mangiavo da re. Vabbè, lo so, anche io già mangiavo bene, dai. Ho già di panini, panini, per carità. No, i panini raro, qualche volta così, quando ero fuori in qualche paesello, così, allora sì, me lo facevo sul posto stesso, nel negozio, fanno arrivarmi da casa, bello croccantello, me lo prendevo, un due panini così. E da me li mangiavo sempre un emizio, ma... apri a mangiare panini fa male, ma buffurelli, sarà limone, barò, poi già ne risenti. Ah beh, certo. Un bel po' che mi rubazia con la pancetta e puntina, buona reggila. Oh, fa due panini con una bella focaccia, bella madura. Già va bene, grazie. C'è sempre avere la pasta piena. Chiaro credo. E quando Babbo Volvino mi portava anche una bottiglia da mezzo litro di quelle di vetro bianche con il tappo attaccato, ma regavo pure la metà di mezzo litro di vino. E beh, attore, a chi sei? A Tore le cadute, Tore non c'è più. Fuggito se ne. Ma ti immagini, sempre curri curri e il tuo giovanotto, boh. E Gianni Maria oggi non si è sentito, come mai? Ah, tutto. Tutto è andato in campagna e si è tornato tanto sciancato. Ed richiede un bego la campagna. La giurista di comandare Saddam Hussein a farlo travagliare, no a punire. Che l'ho visto già l'altra volta, mi ha mandato un video. Era molto zappelli, ma ti pare che è uomo di molto zappa 80 anni. Fallo un po' giovane. Vuoi dire che ti piace a fare du buru, catta me se deve muovere du buru mi. Purtroppo, se gli piace anche a lui. Ma lo sai, io una volta ero da morto senza usare la moto zappa. La righella di provata a passare domani. Ero tutto un nodo. Che ti fai di così? Che la devi trattare poco a poco, 10 minuti a va. 10 minuti domani, 10 minuti piano piano, poi ti prendi la mano e non ti fai nulla. Lo so, ma una volta che sei venuto non te ne rendi conto, ben sa fa. Infatti avevo fatto tutto il pezzo di davanti in campagna, ma l'indomani, io ho cucciato una ghetta da dolori. Pensavo portare mi bastavo i bracci, a furia di vibrarti. Ma costruisci la buccia. Grazie, poco a poco bisogna farla la cosa. Non tutta un'ora, poco a poco vuole fatta. Lo so, ma io a vaga non ne posso più. Non saranno. A vaga, già lo fate i miei nipoti, i miei figliori, già saranno. Ma io gli do le direttive, li controllo. E il bigliamo già frusciate a cantori. Sono padre quanti di cui io. Cattivo che sia, mi sei marumi. E allora, devi fare il controllore, vero Luca? Vabbè, l'ho usato. Ciao a tutti, buona cena a domani, ciao. Ehi, ciao Lu, a domani, buona cena, buon tutto, saluti a Marina da parte di Rossi, di Paoletta. Ciao, sentiamo, neanche io ne approfitto, dall'ottima così, chiuso. Ciao Tore, ciao Antonello, ciao Luca, Flipper, ciao a tutti i componenti della ruota. Riprendi Tore, rilancia a te. E ciao Gio Maria, se ce l'ascolto, e Bacchigio se ce l'ascolto. Ciao a tutti, vai Tore. Ok, ciao Grazia, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime, ok. Antonello, vabbè, io sono così a Renni, ciao a tutti. Ciao ciao a tutti circolare, alla prossima! Ciao Grazia!